Siamo contenti di fare questa presentazione perché per diversi motivi e diverse implicazioni. Vabbè, una è che siamo all'ottava edizione della Terra Trema e quindi è sempre uno sforzo enorme portare a casa questa manifestazione che non è scontata, non è scontata riuscire a organizzare tutto quello che avete visto, che potrete vedere dopo e durante i prossimi giorni, e quello è un primo pezzo importante che ci tengo a sottolineare. L'altra implicazione è che oggi è l'anniversario, il decimo anniversario della morte di Luigi Veronelli, e quindi dopo ci sarà anche un incontro a lui dedicato, ma soprattutto dedicato alle tematiche che Veronelli, insieme a alcuni centri sociali, insieme alla Terra Trema, hanno portato avanti in questi anni, con l'idea di rilanciare, non solo di commemorare. L'altra cosa è questa: avere qua Patrizio oggi per noi è un altro pezzo in più. Quando abbiamo iniziato, non per forza ci occupavamo di quello che poi andremo a raccontare, quello che ci racconterà Patrizio. E lo rilanciamo un'altra volta, nel senso che a marzo vorremmo fare proprio 2 giornate su questi temi, sui temi dei semi antichi e di quanto è importante ragionare intorno a questi temi per l'agricoltura e non solo. E farlo a pochi mesi dall'Expo, ha ancora maggiore importanza, secondo noi. Perché dentro l'Expo succederanno delle cose che a noi non ci piacciono, che non piacciono all'agricoltura, non piacciono a un certo tipo di agricoltura. E quindi è bene sottolinearlo che tipo di agricoltura ci piace. Lì succederanno delle cose, speriamo che non sia un momento di rottura, un momento che rilancia delle pratiche che portano alla devastazione del pianeta, altro che nutrire il pianeta, e quindi quella retorica vuota che ci vogliono raccontare è il primo pezzo che anche un po' da soli si sta sgretolando, no? Insomma, l'immaginario che ci raccontavano che avrebbe addirittura nutrito il pianeta, poi nutrito Milano, poi arricchito alcuni a Milano e poi non si sa chi arriverà a tagliare il nastro di questo Expo. Vabbè, quelli affari loro. Quello che ci interessa è continuare ad alimentare un certo tipo di narrazione, un certo tipo di relazione, un certo tipo di progettualità. E Patrizio è una di queste persone che in Italia porta avanti un certo tipo di discorso che adesso ci racconterà.